resister non posso al caro amico, per pietà che mi guida in capo. E quale sarebbe il tuo disegno? Il genitore sa che tu l'ingannasti, sa che Megacle sei, perdi te stesso presentandoti al re, non salvi altrui. Col mio principe insieme ormai mi perderò. Senti, e non stimi consiglio migliore che il padre offeso fa da placare io stessa. Oh, che di tanto lusingarmi non so. Sì, questo ancora per te si faccia. Stringe a volere ciò